Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nel panorama musicale italiano, direi anche mondiale, sono pochi gli artisti che possono vantare una longevità degna di nota. Poi oggi viviamo, insomma, nell'epoca delle meteore, dei miti effimeri nati nei talent, degli eroi di una stagione. Ci siamo quasi abituati a questo passaggio di personaggi sulla scena che spariscono senza lasciare tracce. Ma anche per chi non è nato nei talent ma ha fatto la sua gavetta normale, comunque non è semplice restare per anni sulla cresta dell'onda, perché cambiano le mode, i gusti, arriva gente nuova. Insomma, durare nel tempo non è una cosa da tutti. Bene, oggi io voglio raccontarvi la storia di un personaggio, ma in realtà di una band di cui questo personaggio faceva parte, che hanno fatto veramente la storia della musica italiana. Un gruppo che ha superato i 40 anni di carriera, e il nostro protagonista li ha superati con questo gruppo. Insomma, gente veramente speciale. E mi fa piacere raccontare la vicenda di questo artista, perché è un uomo che aveva un'indole anticonformista, schiva, che umanamente era una persona meravigliosa e che non ha ricevuto forse il dovuto riconoscimento. Ne ha ricevuti molti, ma insomma, secondo me meritava ancora di più. Insomma, oggi parliamo di Francesco Di Giacomo, il cantante del Banco del Mutuo Soccorso, la band più rappresentativa, direi, del rock progressive italiano, insieme alla PFM e tutto al più alle Orme. Francesco Di Giacomo è stato la voce straordinaria di quel gruppo, l'autore di quasi tutti i testi delle canzoni del Banco. Lui era un personaggio, già a vederlo era immenso, con una grande barba lunga, assomigliava un po' forse a Demis Russo, se il cantante greco. Aveva un portamento particolare, un gigante buono, era stato un attore molto amato da Fellini, col quale aveva collaborato a lungo. Era anche un bravo cuoco, una ottima forchetta. Avete notato che ne parlo al passato, perché purtroppo nel 2014, a 67 anni, Francesco Di Giacomo è morto in un terribile incidente stradale che ha messo la parola fine alla sua lunghissima carriera, e anche se non ha messo a tacere né lui né la sua voce né il suo ricordo. Peraltro un anno dopo, nel 2015, il Banco del Mutuo Soccorso ha subito un'altra perdita gravissima: chitarrista e trombettista Rodolfo Maltese, altro grande signore, grande personaggio e grande musicista. Ma torniamo a Francesco, ascoltiamo cosa aveva detto alle telecamere di Auditorium TV nella serie I Cinque Comandamenti, nella quale gli artisti intervistati venivano invitati, l'hanno chiesto anche a me, venivano invitati a enunciare i loro personalissimi Cinque Comandamenti. Primo comandamento, ineludibile: dire a Dio di evitare in presenza di estranei di dire Dio mio aiutami tu. Secondo, dire a Dio che di spalle il mondo si vede poco. Terzo, raccomando alle famiglie di far giocare i bambini lontano dalle parrocchie, molto lontano. Quarto comandamento, lavorare un giorno a settimana, e sei, riposarsi. Questo è fondamentale. Quinto, desiderare la donna ad altri se ne vale la pena. Insomma, un uomo libero, spiritoso, uno che diceva sempre quello che pensava, uno che la sua personale dichiarazione di indipendenza la riproponeva in tutti i suoi testi, in tutte le sue canzoni. Francesco Di Giacomo nasce il 22 agosto del 47 a Siniscola, in provincia di Nuoro, in Sardegna, ma ha 5 anni quando si trasferisce a Roma. Insomma, è romano di adozione. Andrà poi a vivere in campagna a Zagarola, una trentina di chilometri da Roma, lontano dal fragore della città, dalle forme di divismo che lui non apprezzava particolarmente. Inizia a cantare molto presto, anche grazie alla madre che aveva la passione del canto. Entra in diverse formazioni di amici. Nel 71, che a 24 anni, partecipa come voce del gruppo Le Esperienze al secondo Festival Pop di Caracalla a Roma. Era il periodo dei primi grandi festival pop anche in Italia. Di per sé la partecipazione non è importante, però è decisivo quello che avviene in quel festival, perché lì a Caracalla partecipa un altro gruppo di recente formazione, ragazzi giovanissimi che si chiamano Banco del Mutuo Soccorso. Il banco si era formato un paio d'anni prima, quando il tastierista Vittorio Nocenzi, 17 anni allora, viene segnalato all'RCA da Gabriella Ferri, per la quale ha musicato alcuni brani. Nocenzi ottiene un'audizione, non ha un vero gruppo, quindi mette insieme una band improvvisata col fratello Gianni, e Vittorio Nocenzi era più tastierista, Gianni più pianista, e altri amici. Per questo si chiamano Banco del Mutuo Soccorso. E il provino con l'RCA va bene, il gruppo inizia la sua avventura, però non dà grandi frutti. Però le cose cambiano quando Nocenzi incontra Francesco Di Giacomo. Scatta qualcosa ed è una vera e propria svolta qualitativa, perché i ragazzi si riuniscono sotto il nome unico di Banco del Mutuo Soccorso, che è un nome bellissimo peraltro. Avranno diversi cambiamenti di formazione: Renato D'Angelo, Pierluigi Calderoni, grandissimo batterista, Marcello Todaro, grande chitarrista e poi mio tecnico del suono, Fabrizio Falco, Gianni Nocenzi, mentre Francesco Di Giacomo e Vittorio Nocenzi saranno i due sempre presenti nella formazione. Nel 72 arriva il primo album, si intitola semplicemente Banco del Mutuo Soccorso. È un disco particolare, intanto perché è un salvadanaio la copertina, quindi a forma di salvadanaio, infatti era spiccava tra i dischi nello scaffale, perché avendo la base del salvadanaio era più alto degli altri. Ma soprattutto stiamo parlando di un album straordinario che catalizza l'attenzione non solo della critica ma anche del pubblico. Insomma, nasce il rock progressivo italiano, il cosiddetto prog, rock che ha l'intento insomma di dare maggior spessore culturale, compositivo, un genere complesso. Stiamo parlando di un genere che all'estero annoverava gli Yes, i Genesis, Emerson, Lake e Palmer, i Gentle Giant e il Jethro Tull. Insomma, un rock corposo. Da lì partirono tante cose. Il falco e il gabbiano. Banco del Mutuo Soccorso, questo è il nome della band e dell'album di esordio. Ha un successo clamoroso, segna i nuovi confini del pop italiano, e per i ragazzini di allora, io quando è uscito questo disco avevo 13 anni, si crea un dualismo Coppi e Bartali, Banco PFM. Sono loro due, queste due band, a dividersi il sostegno dei fans del progressive italiano. L'album è ricco di novità, ci sono canzoni rivoluzionarie come Rip, Il Giardino del Mago, insomma è un album veramente di peso, veramente bello, supportato da una meravigliosa voce come quella di Francesco Di Giacomo, che peraltro è autore anche dei testi. Abbiamo già parlato di una copertina così particolare di questo album, sagomato a forma di salvadanaio, con dalla feritoia una striscia di cartoncino con i volti dei membri del gruppo, insomma una roba alla Andy Warhol, una cosa veramente interessante che rimane tuttora, insomma, una delle copertine più famose della storia della musica italiana. E il banco fa una scelta veramente coraggiosa anche dal punto di vista economico, perché la copertina ha un costo non indifferente e loro sono al loro album di esordio, ma a quei tempi insomma c'erano discografici pronti a investire veramente sul talento, infatti erano tempi lontani. È una scelta che Francesco Di Giacomo commenterà così molti anni dopo. Questo è stato il nostro manifesto visivo e dall'inizio è rimasto per anni e ancora lo è in qualche modo, perché questo salvadanaio, questo oggetto ormai quasi, diciamocelo, desueto, che non si usa quasi più, molti ragazzi neanche sanno cos'è, a Roma detto dindarolo. Il salvadanaio è un modo per conservare, per mettere in qualche modo da parte le cose che ami, le cose che vorresti che non fossero sciupate o comunque da spendere nel tempo. E nel 72, nello stesso anno, la band molto prolifica dà vita a un secondo album, Darwin, un concept album. I più giovani forse non sanno neanche cos'è un concept album. È un album con una serie di canzoni che ruotano attorno allo stesso tema. L'opera prende il nome da Charles Darwin, crea insomma atmosfere primordiali, parla della comparsa dell'uomo sulla Terra. I testi delle canzoni scritti da Francesco fanno riferimento alle teorie evoluzionistiche come la conquista della posizione eretta, 100 mani e 100 occhi, 750.000 anni fa l'amore e l'evoluzione, il brano più lungo che descrive i passaggi dello sviluppo biologico dall'origine della Terra fino alla comparsa dell'uomo. Insomma, erano anni in cui si facevano album intelligenti e di peso. E l'anno dopo, nel 73, il chitarrista Marcello Todaro lascia il gruppo e prende la strada della fonica, l'ho detto prima, diventa il mio fonico, e arriva Rodolfo Maltese, chitarrista, trombettista, grande musicista, grandissimo signore, chitarrista storico del Banco, rimane anche lui 40 anni col Banco fino alla sua morte il 3 ottobre del 2015. E il Banco dà vita nel 73 al suo terzo album, da molti considerato il capolavoro, Io sono nato libero. Quindi Giacomo concretizza tutte le sue influenze classiche, scrive testi ispirati a Leopardi, a Ariosto, testi che si amalgamano con le parti melodiche e strumentali secondo gli schemi tipici del rock progressivo, temi tutt'altro che lontani dalla realtà, perché Di Giacomo parla della libertà di pensiero, della repressione, racconta il ritorno a casa di un soldato dell'Armata Rossa, insomma tratta in maniera poetica e classica temi attuali e della vita di tutti i giorni, il compito dell'artista. Credo che un musicista, uno scrittore, un pittore, sono ancora, senza fare nessun intervento barricadero, ma credo che sia fondamentale che uno tenga presente quello che gli capita intorno, altrimenti stai vivendo su una nuvola, altrimenti faccio che so, il minuetto del Boccherini, ma non so quanto, con tutta la sua bellezza, quanto possa avere a che fare, quanto possa essere attinente. Io sono nato libero comprende la delicatissima ballata Non mi rompete, che forse è diventato il brano più conosciuto del Banco del Mutuo Soccorso, esce anche come singolo, erano altri tempi. Non mi rompete è una ballata struggente ma molto complessa. E nel 74 un'altra svolta, un colpo d'ala. Greg Lake, il bassista di Emerson, Lake e Palmer, convoca il gruppo alla Manticore, la casa discografica di proprietà del gruppo inglese. Il Banco abbandona l'RCA e tenta l'avventura europea e mondiale. Per certi versi va quasi meglio che in Italia, perché il Banco in molti paesi, per esempio in Giappone, è ancora considerato un gruppo leggendario. L'anno dopo esce l'album Banco, che ripropone in inglese i migliori successi dei primi tre dischi. La raccolta ottiene un grandissimo successo e nel 76 Francesco Di Giacomo e il Banco partono per un tour europeo e suonano come supporter di un gruppo gigantesco del rock progressivo inglese, i Gentle Giant. Noi abbiamo segnato un percorso internazionalmente importante, Giappone tre volte, Messico, Stati Uniti, ora senza, Brasile, cioè, Sud America, insomma, tour europeo molto bello con Gentle Giant e quant'altro. Quindi questa cosa sicuramente c'è, anche ricordando certe cose, non so, Peter Gabriel che diceva in un'intervista al Melody Maker, diceva: abbiamo sentito il disco del Banco, o i Led Zeppelin che ti regalano Physical Graffiti al Blackies Hotel. Sono cose su cui qualcuno ci avrebbe forse anche impiantato una carriera. Noi l'abbiamo vissuto, devo dire, oggi con molto, con un ricordo molto bello, molto piacevole. Una volta forse con un po' di pudore. Pudore, che bella parola, non la sentivo dire da un cantante da molti anni. E in occasione di questo tour esce un altro bellissimo album del Banco, Come in un'ultima cena. C'è anche una versione inglese tradotta da Branduardi. È un altro capolavoro che segna un'epoca, dove è presente uno dei più grandi successi del Banco e di Francesco Di Giacomo, che è autore e interprete di Il Ragno. il falco e il gabbiano. Un antidivo per eccellenza, una grande voce del progressive italiano, un simbolo indiscusso di un'epoca meravigliosa del rock, un mondo che sembra da un lato vicinissimo perché la musica è attualissima e dall'altro lontano anni luce, se penso a chi sono i cantanti di successo, arrivati al successo negli ultimi anni. Stiamo parlando di Francesco Di Giacomo, cantante, autore dei testi del Banco del Mutuo Soccorso, che ha attraversato 40 anni di storia della musica, che ha portato avanti con coerenza, ma con tanto affetto, uno stile unico, distintivo, ha fatto grande la scena rock italiana, forse assieme agli antagonisti storici, anche se erano molto amici, gli antagonisti storici nella musica, la PFM, e poi c'erano le Orme, c'erano gli Area, di cui abbiamo già parlato, un pochino più orientati verso il jazz. Insomma, il progressive italiano per una breve stagione è stato all'altezza del progressive straniero, inglese in particolare. Siamo arrivati al 76 nel nostro racconto. Il Banco è supporter del tour europeo dei mitici, dei grandissimi Gentle Giant, dei fratelli Schulman, uno dei gruppi più rappresentativi del rock progressive britannico. È una tournée che fa conoscere il Banco in tutta l'Europa, che procura al gruppo una notorietà straordinaria, tanto che andranno anche a suonare in Estremo Oriente, negli Stati Uniti e nell'America del Sud. E in quello stesso anno, nel 76, il gruppo firma la colonna sonora del film Il Garofano Rosso, tratto dal romanzo di Elio Vittorini, un'opera estremamente complessa. E poi seguono altri album molto acclamati, Canto di Primavera, Il Live Capolinea, Buone Notizie, Urgentissimo nell'81, che ha un successo enorme anche per la presenza di una canzone molto particolare, dove il testo di Francesco Di Giacomo ha un ruolo dominante. Lui è un precursore, perché la canzone parla con grande sensibilità di omosessualità. La canzone si intitola Paolo Pa. E poi negli anni la formazione del Banco subisce vari cambiamenti, diversi avvicendamenti anche importanti, quando Gianni Innocenzi abbandona il gruppo, arriva il polistrumentista Gabriele Amato, che era stato membro della band di Aretha Franklin, e dalla collaborazione con lui nasce nell'85 un album molto significativo, E Via. Ne scaturisce anche la partecipazione del Banco a Sanremo. Il pezzo che piace molto al pubblico, proprio per l'interpretazione così particolare di Francesco Di Giacomo, si chiama Grande Giorno. È molto interessante l'opinione di Francesco Di Giacomo sul ruolo della canzone, quindi sul significato dei suoi testi e delle sue scelte, e su quello che è il ruolo del cantautore. Scusa, ma c'è un fatto che secondo me è importante, no? I fatti corrono più veloci di quello del tuo mondo della musica, corrono più veloci, e tutto sommato c'hai sempre il fiato corto rispetto a queste cose. Ecco perché credo che poi tutto sommato ci sia veramente bisogno di un pubblico che insieme a te stia attento, e se stai attento insieme a te non è un caso che viaggi la tua musica, perché la tua musica viaggia insieme a dei segnali di pelle che sono riconoscibili, perché se no altrimenti uno si richiude a casa o nella propria macchina, ascolta la sua canzoncina confortante fatta di certi segnali. Io voglio che una canzone mi inquieti, voglio che una canzone mi tenga sveglio, non voglio dormire tranquillo, decido quando posso dormire tranquillo. E beh, parole sante, anche se oggi diventano un po' parole al vento. Oggi le canzoni devono fare tutto tranne che far pensare e inquietare. Ma torniamo al nostro protagonista. Nuovi progetti, successi, album dal vivo come Nudo o No Palco, collaborazioni importanti come quella di Giacomo con Eugenio Finardi, che sfocia nel bellissimo album Un Fado, tutto di fado portoghese. Oltre 40 anni di grandi successi di Francesco Di Giacomo con il Banco del Mutuo Soccorso, anche come cantante solista, anni che avrebbero tranquillamente potuto diventare molti di più. Ma il 21 febbraio 2014 un terribile incidente stradale proprio vicino alla sua Zagarolo mette la parola fine alla vita di Francesco Di Giacomo, che muore a 67 anni. La sua arte, la sua singolarità, naturalmente gli sopravvivono con canzoni che arrivano a sorprenderci. E poi nel febbraio 2016 esce l'album di Elio e le storie tese, al cui interno è presente una canzone scritta e cantata da Francesco Di Giacomo, cantata nel 2005, è rimasta sempre in un cassetto e poi ritirata fuori dall'autore della musica Paolo Sentinelli, collaboratore, amico di Francesco Di Giacomo per tantissimi anni. La canzone si chiama Bomba Intelligente. Sostenendo con la forza della ragione che una bomba possa essere molto, ma molto intelligente, gli chiederei, poco prima di scoppiare, se si fa una partita a scacchi o se mi potrebbe illustrare un racconto o un tramonto come potrebbe fare Hemingway. Penso che rinuncerebbe a scoppiare. Questo mi aspetto domani. E per parlare ancora di Francesco Di Giacomo, abbiamo con noi uno dei suoi partner storici, il musicista Paolo Sentinelli. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. E senti, tu hai lavorato spesso con Francesco e quindi immagino, data l'umanità del personaggio, che insomma abbia condiviso proprio una parte di vita importante per entrambi, no? Com'era lui? Sì, lui era molto rassicurante, diciamo proprio, ma sotto ogni punto di vista, sia nella vita che quando magari arrivavo tardi a casa sua, stai sereno, non ti preoccupare, magari aspettava per mangiare perché io arrivavo tardi, ma rassicurante anche sul palco, no? Molte volte, spesso succede che io da pianista accompagnavo dei cantanti, no? E a volte il cantante sul palco ha qualche ansia, per cui si appoggia al musicista per cercare tranquillità, la sua coperta di Linus, la sua coperta. E Francesco era al contrario, Francesco rassicurava, era lui che rassicurava, dava anche sempre l'impressione di essere uno padrone del palcoscenico, non era mai travolto dagli eventi, no guarda, noi abbiamo fatto, cioè diciamo negli ultimi 10 anni abbiamo scritto delle cose insieme che adesso piano piano usciranno. Noi di solito si improvvisava, nel senso si inizia con una cosa e poi vediamo dove ci porta, nel senso in base a come si instaura il rapporto con il pubblico. Cioè lui era uno che improvvisava molto e aveva questa capacità di dire delle cose meravigliose così, tanto è vero che io spesso prendevo nota delle cose che diceva e queste cose poi diventavano degli scritti e delle canzoni. Quindi stai per anticipare la mia domanda successiva, che era proprio questa, cioè come lavoravate, che tipo di organizzazione del lavoro avevate? Non era un lavoro vero e proprio, all'inizio due amici molto molto molto stretti, era una sorta di terapia, dice la moglie, no? Dice, voi facevate terapia insieme, io arrivavo a casa di Francesco, pranzavamo, scambiavamo i pensieri e quindi si parlava di qualsiasi cosa e lui tirava giù delle frasi, i pensieri, una volta parlando dell'amore ha cominciato a dire che quando ci si innamora bisogna innamorarsi per bene e io prendevo appunti di questo e di altre cose, di come ad esempio ci sono dei fatti nella vita che ti passano dentro e non si cancellano mai, e diceva non si cancellano neanche con la pioggia, con il vento, un favore di vento. Io con tutti questi appunti tornavo a casa, mi sedevo al pianoforte e uscivano fuori delle canzoni, delle musiche che non erano scritte su una melodia, diciamo. Arrivo, questa è la canzone, scrivi un testo, è tutto il contrario. Ci sono dei brani inediti cantati da lui, registrati a casa in cucina magari, no? Oh, abbiamo scritto sta cosa, dai, questo è il microfono, registra una voce guida. Sai, la vita ti dice, beh, che facciamo di questo? Tutti, che bello, ne fate un disco? Sì, dai, adesso vediamo. Ne fate un libro? Sì, dai, adesso vediamo. Ma certo. E quando ci siamo un po' decisi a farlo, poi la vita ti dice, troppo tardi. Fanno sgambetto e rimane così. Certo. Senti, tu, per tornare a una parte lieta, due volte hai parlato di pranzi. Quando hai detto arrivo tardi e lui mi aspetta a pranzo, e poi quando hai detto in cucina mentre cucinava. E la cucina era, come dire, un aspetto fondamentale della sua vita. Sì, lui piaceva cucinare, ma soprattutto per noi era un momento in cui fermavamo tutto, no? Allora, certo, siamo lì in cucina, siamo di fronte alla pasta, allo spicchio d'aglio, a quello che c'era. Sì. Ed era un momento dove era quasi un momento sacro, no? Adesso si mangia, non si risponde al telefono, se qualcuno mi deve chiamare per lavoro dopo pranzo. Ed era un momento per fermare un po' tutto quello che correva intorno in quel momento. E quindi era molto importante, certo, era uno spazio vitale proprio, no? Adesso devo pranzare. Bello, è certo, un altro bel insegnamento. Paolo, sei stato gentilissimo, in bocca al lupo per il tuo nuovo progetto che ci farà conoscere ancora, qualora ce ne fosse bisogno, qualcosa di Francesco Di Giacomo. Grazie Paolo. Grazie a voi, arrivederci. Tra l'altro Paolo Sentinelli ci ha mandato qualcosa di veramente prezioso, la canzone Il Senso Giusto, che è una canzone scritta e cantata da Francesco Di Giacomo e scritta con Paolo Sentinelli, una canzone che noi vi facciamo sentire in anteprima. Curami come fossi un figlio, un figlio. E chiudo con un paio di aneddoti personali di Francesco Di Giacomo, di quella volta che, avendo mangiato così bene, lasciò un assegno in bianco al padrone del ristorante dicendogli mangiare qui non ha prezzo, e al contempo di quella volta invece che, avendo mangiato così male, disse al gestore, ovviamente di un altro ristorante, io me ne vado, non pago, se vuoi fammi causa, io racconterò a tutti quanto si mangia male da te. Questo, insomma, per dire quanto amava la vita e anche la parte umoristica della vita, un grande autore di canzoni, un grande personaggio, un grande cantante, un grande assemblatore di talenti come Francesco Di Giacomo, con il Banco del Mutuo Soccorso di Vittorio Innocenzi ha segnato un'epoca della storia della musica italiana, senza dimenticare tanti altri grandi musicisti che hanno militato nel banco. Mi piace ricordare Rodolfo Maltese, scomparso nel 2015. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, che hanno volato in alto. Ecco, Francesco Di Giacomo con il banco ha volato veramente molto in alto, poche le cadute e tantissime le impennate. Ognuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può dare il colpo d'ala che lo porta a volare in alto come il falco e come il gabbiano. Se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, cioè il mio microfono, scrivete al falco e il gabbiano @radio24.it, oppure al nostro sito. Venite a cercarmi sui miei social, su Twitter, su Facebook, sui nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Grande Moby Dick.